Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa settimana, settimana molto intensa quanto a temi, anche perché è stata la settimana delle reazioni, ormai lo sanno anche i sassi, al voto inglese sulla Brexit. Ma dicevo, i temi di oggi riguarderanno meno quelli di carattere internazionale, anche perché le borse oggi sono decisamente più tranquille, più 0,60 Milano, più 1% Francoforte, più 0,80 Parigi, più 1,21 Londra. Devo dire che i titoli sono anche poco mossi, eccezione fatta per due titoli bancari, UniCredit che perde il 4,92% e la BIP, la Popolare Emilia Romagna, meno 4,60. Anche altre tre banche non calano tanto, ma devo dire che sono deboli. UbiBank il 2% di calo, Intesa l'1,40, Pop Milano lo 0,80. Per il resto invece situazione più tranquilla, con un rialzo significativo su Hughes Net-a-Porter più 4,40 e Moncler più 4%, Unipol SAI più 4, Buzzi Unicem più 3,80, Saipem più 3,5, Fiat Chrysler più 3,30, Unipol più 3,30, Atlantia più 2,5, come le Poste Italiane e Ferrari. L'euro è a quota 1,11. Per quello che riguarda i temi di borsa, tutto sommato è il settore auto oggi in Europa che tira, e tira anche negli Stati Uniti. Su Hughes ne parleremo, ieri c'è stato il consiglio di amministrazione, frenata appunto sulle banche. Parleremo di questo nel giorno in cui, come sempre venerdì, torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Oggi abbiamo anche qualche spunto per il neo sindaco di Roma Raggi, perché ci sono due casi pazzeschi e si chiamano AMA e ATAC, tanto per cambiare. L'ATAC ci fornisce, insomma, dovremmo quasi pagare le royalties all'ATAC, perché quasi ogni settimana c'è qualcosa su questa azienda municipalizzata, che poi ci arriviamo. Ma faccio notare che il settimanale tedesco, Der Spiegel, l'ha definita la peggiore azienda di trasporti d'Europa. Complimenti. Questa volta io sono assolutamente d'accordo con i tedeschi e con Der Spiegel. E abbiamo un altro capitolo di quello che sono gli sprechi, le ruberie, giro d'affari, perché non possiamo pensare che sia solo, diciamo, incompetenza, c'è anche malaffare, dopo che abbiamo raccontato di tutto, ma vi arrivo tra un attimo. Per quello che riguarda altri temi, c'è stata oggi la relazione del Centro Studi Confindustria, alcuni aggiornamenti delle stime. Stime non buone, nel senso che tengono conto anche dell'effetto della Brexit. Il costo dell'Italia, per l'Italia della Brexit si traduce, dice il Centro Studi Confindustria, in 0,6 punti di PIL nel biennio 2016-2017 e 81.000 disoccupati in più. Sono stime prudenziali, però insomma il dato che deve preoccupare è che vengono riviste a ribasso anche le stime sulla crescita italiana, mentre prevede il Centro Studi Confindustria un'accelerazione degli investimenti che fanno segnare un più 1,9 nel 2016, un più 1,3 nel 2017. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche di un elemento positivo, visto che abbiamo oggi la poco invidiabile classifica: sono terminati i lavori di restauro del Colosseo, quelli sponsorizzati da Diego Della Valle, dal proprietario della TOZ, con uno stanziamento di 25 milioni di euro. E comunque, come la pensi, insomma, è un bel segnale avere almeno il Colosseo restaurato con soldi privati, visto che spesso parliamo anche di notizie più negative. Per quello che riguarda invece il tema, vedo molto che mi chiedono di Brexit. No, oggi l'effetto sulle banche, ripeto, è molto contenuto, tranne che su quei tre titoli italiani, e vi arriveremo su questo. C'è una notizia che riguarda invece, arrivata poco fa, il gruppo Impregilo Salini. È importante perché si è aggiudicato un contratto da 1,9 miliardi di dollari. Nel caso specifico Il gruppo Serini Pregiro ha vinto l'assegnazione del primo lotto dell'opera, appunto da quasi 2 miliardi di dollari, che prevede la costruzione in una delle principali catene montuose dell'Asia centrale, in Tagikistan, di una diga che sarà alta 335 metri, la più alta del mondo. La commessa è all'interno dell'accordo quadro che il gruppo Serini Pregiro ha firmato col governo del Tagikistan, dal valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Allora adesso partiamo con le notizie in breve, fermo restando che 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, per WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Oh, vedo un messaggio interessante, dice: ma state rompendo le scatole con la crisi, io lavoro in Emilia Romagna in un distretto industriale, stiamo tutti andando benissimo, compresi i fornitori, abbiamo ordini fino al giugno 2017 e stiamo assumendo. Guardi che mi fa piacere che lei scriva questo, in realtà, perché stiamo raccontando sì i casi di crisi, ma stiamo anche raccontando come ci sia stato in parti del paese, purtroppo a macchia di leopardo, un recupero delle attività produttive. Abbiamo anche raccontato come ci siano ormai stimate, mal contate, tra le 20 e le 25 mila imprese italiane che sono andate oltre la crisi, si sono internazionalizzate e hanno e i fatturati non vanno affatto male. C'è il problema però di chi resta indietro e di chi non è riuscito a compiere questo percorso, questo passaggio di internazionalizzazione. Per cui il fatto che in alcune aree, in alcuni distretti le cose vadano bene, ma lo vediamo anche noi, lo abbiamo raccontato anche sul fronte dell'occupazione e dei fatturati, non vuol dire che in realtà ci sia una pattuglia numerosa, ancora la maggior parte di imprese, che ha difficoltà, quelle che sono sopravvissute, comunque a recuperare margini di profitto e quindi di utile. Allora, dicevo, altre notizie in breve. La Federal Reserve oggi stima che l'impatto della Brexit sugli Stati Uniti sarà scarso, forse zero. Ancora, per quello che riguarda invece la Banca Centrale Europea, oggi uno dei membri del Consiglio Direttivo, Ewald Notoni, ha detto che la BCE darà un segnale tempestivo ai mercati se deciderà o meno un ampliamento del quantitative easing oltre al marzo dell'anno prossimo. Il ministro della giustizia inglese invece, Michael Gove, che è il candidato alla guida dei Tory, quello che diciamo la cui candidatura ha fatto ritirare quella di Johnson ieri, di Boris Johnson, è d'accordo con la rivale dentro il partito conservatore, Theresa May, nel non prevedere di attivare nei prossimi mesi l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, quello che deve attivare la Gran Bretagna per iniziare la procedura di uscita, cioè il divorzio formale dell'Unione Europea. Non lo può chiedere, non lo può attivare l'Unione Europea, non lo può attivare Bruxelles. Il Trattato di Lisbona prevede che debba essere il paese, in questo caso la Gran Bretagna, a attivare l'articolo 50. Però non hanno fretta gli inglesi adesso, abbiamo capito, qualcuno mi contesta, ma si stanno pentendo tutti in Gran Bretagna, tranne chiaramente quelli fermamente convinti del voto, ma una buona parte del paese. Ma basta vedere come si stanno comportando le autorità britanniche, non hanno nessuna fretta. Adesso parlano del 2017, perché prima vanno i conservatori a elezioni in ottobre. Insomma, sembrava che fosse una questione di vita o di morte uscire dall'Unione Europea. Adesso non interessa più nessuno, o meglio, si prendono una calma poco pragmatica. E infatti dice l'altro candidato, appunto, ai conservatori, Michael Gove, se ne riparlerà nel 2017. Non faremo le elezioni anticipate in Gran Bretagna, voteremo nel 2020, però nei prossimi mesi non abbiamo nessuna intenzione di attivare l'articolo 50. Vabbè. E poi Michael Gove ha detto che metterà fine alla libera circolazione degli immigranti e nel suo programma introdurrà un sistema di punti all'australiana e ridurrà il numero di immigranti. Per quello che riguarda invece il tema delle banche italiane, oggi è intervenuto il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, ha detto: non posso discutere sui problemi delle banche italiane in un momento in cui siamo in serie discussioni con vari stakeholders, non c'è alcun legame tra quanto approvato ieri, la notizia che è arrivata ieri, e le ricapitalizzazioni. Non c'è alcun legame tra lo schema di liquidità approvato dalla Commissione Europea e la ricapitalizzazione delle banche. Sappiamo, perché ieri abbiamo parlato a lungo, che la Commissione Europea ha approvato la richiesta precauzionale dell'Italia di poter dare garanzie pubbliche per facilitare il rifinanziamento delle banche in caso di carenza di liquidità. Per cui non è che lo Stato entri nel capitale delle banche. Bruxelles ha specificato che non c'è, è una misura precauzionale, non è che debba essere utilizzata. Però questo conferma quanto delicata è ancora la situazione del nostro sistema bancario. Le garanzie potrebbero arrivare, ricordo, fino a 150 miliardi di euro e servirebbero alle banche che dovessero faticare a finanziarsi a causa di improvvise carenze di liquidità. Tutti i paesi nelle fasi più critiche dopo il 2008-2009 avevano attivato questa possibilità. Oggi resta in vigore solo per Grecia, Portogallo, Cipro e Polonia. E su questo è intervenuto oggi anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Poi lo ascolteremo a margine di quella che è invece la presentazione del Centro Studi Confindustria. Ma al microfono la nostra Livia Zancanelli ha detto: attenzione, e quello deciso ieri è un paracadute per la liquidità, ma non riguarda le garanzie bancarie. Un passaggio molto breve, ma ascoltiamo. Quella è una paracadute per la liquidità, non c'entra sulla garanzia delle banche. Evidentemente c'è qualche criticità su qualche banca, cosa diversa del sistema bancario italiano. Attenzione, diciamo, a queste cose, perché altrimenti creiamo solo ansia gratuita nei mercati. Allora, dati oggi sulla disoccupazione: a maggio è calata all'11,5% dall'11,6% di aprile, il dato è rivisto, il tasso di occupazione risulta in aumento al 57,1%, però i giovani, il tasso di disoccupazione giovanile è fermo a maggio al 36,9%, tornano a crescere di più i lavori a termine, 37.000 in più rispetto a quelli a tempo indeterminato, 11.000 in più. La fascia d'età dove invece sono diminuiti gli occupati è quella dell'età tra i 35 e i 49 anni, sono diminuiti di 21.000 unità, e gli inattivi aumentati di 23.000 unità. Adesso, prima di arrivare alla classifica, vorrei occuparmi di Prato, perché quello che sta accadendo a Prato, insomma, abbiamo visto la procura intervenire, il presidente della regione toscana spiegare che a money transfer i cinesi, la comunità cinese versa 1 miliardo di euro l'anno. Allora, su questo vediamo di capirci. Noi abbiamo sempre detto che è inutile fare battaglie ideologiche sui flussi migratori, sugli immigrati, perché se vanno a occupare posti che non vogliono gli italiani, se sono regolari. Ma quello che sta facendo e che continua a fare la comunità cinese di Prato è mantenere un atteggiamento illegale. Qui non è un problema di immigrazione o non immigrazione, cioè di una comunità cinese a Prato, e devo dire in parte anche a Milano, che rifiuta meccanismi di trasparenza, e bene fanno le forze dell'ordine e la magistratura a indagare, perché non è accettabile. Ma non lo dico solo perché è una concorrenza sleale, e questo è ovvio nei confronti degli imprenditori pratesi che da sempre lamentano una concorrenza sleale dei cinesi, è proprio che è illegale, basta. Tu puoi essere cinese, italiano, indiano, non me ne frega nulla, non puoi operare in quel modo. Allora, addirittura indebite attività di vigilanza ad opera di alcuni cinesi di Prato in favore di connazionali, con presidio del territorio e ronde contro i nordafricani. Contro questo fenomeno sono indirizzate una decina di perquisizioni della procura. L'inchiesta riguarderebbe anche il reato di istigazione a delinquere e non sarebbe però collegata a quanto successo negli ultimi 2 giorni a Sesto Fiorentino, dove, al confine tra Prato e Firenze, c'è stata la rivolta di circa 500 cinesi dopo una serie di controlli delle ASL. Ma insomma, qual è la rivolta? Qual è il problema? Qualunque imprenditore italiano riceve controlli delle ASL, tutte le autorità che devono valutare impatto ambientale, inquinamento e quant'altro, e voi perché dovreste essere diversi? Voglio dire, avete rotto le scatole, cari cinesi di Prato. Allora, sentite la spiegazione che ha dato Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ospite di Effetto Giorno al nostro Simone Spezia. Storicamente la comunità, essendo considerata almeno tra i delinquenti, diciamo, a giro per questo paese, una comunità aggredibile in maniera semplice: molto contante, molto oro, spesso la non conoscenza della lingua o addirittura la situazione di clandestinità proprio rappresentavano come una preda facile, e spesso con buoni risultati, purtroppo dal punto di vista del predatorio, ecco, mettiamola in questo modo. E quindi c'è stato i numeri, diciamo, dell'aggressione verso la comunità, che a Prato è molto consistente, sì, sono sempre stati numeri molto alti, sono stati la preda preferita di questi ladri, di questi banditi maledetti. Una comunità più indifesa per certi aspetti, anche perché più irregolare, biffoni, diciamocelo. Certo. No? Accennavo prima, nel senso irregolare, in alcuni casi irregolare molto spesso, ma certe volte anche con difficoltà di espressione, quindi anche telefonare ai 113 diventava complicato perché non sai spiegare dove sei, quello che ti è successo, e poi c'è la condizione di clandestinità che ti rende ancora più vulnerabile da questo punto di vista. Ecco perché i numeri delle rapine, dei furti per questa comunità sono numeri molto importanti e significativi, le forze dell'ordine ce l'hanno sempre raccontato. Questo non giustifica però che qualcuno possa pensare a fargli giustizia da solo. Ah, questo è chiaro, è evidente. Secondo lei ci vogliono più uomini dal Ministero dell'Interno? Avete bisogno di più uomini dal Ministero dell'Interno? E la questura di Prato è una questura che, come il questore l'altra sera ci ha comunicato, comunque è considerata bene, ha buoni rinforzi dal punto di vista del Ministero, quindi ha numeri piuttosto. Certo, una città come la nostra, che ha questo fenomeno in particolare, più tutte le dinamiche di una città da 200.000 abitanti, più forze dell'ordine ci sono e più siamo contenti. E indubbiamente il rinforzo lo prenderemo a braccia aperte. Allora, mi scrive un ascoltatore: fosse per Barisoni, o forse per Barisoni sono meglio i nordafricani che vendono droga, rubano, stuprano. Almeno i cinesi lavorano, non rompono i e aiutano a tenere pulite le strade. Guardi, mi sembra veramente un discorso di bassissimo livello. Non è vero che i nordafricani vendano droga, rubino e stupino tutti, cosa sta dicendo? Sono molti nordafricani che lavorano regolari. Ma dopodiché il problema, guardi, come ha spiegato bene il sindaco di Prato, essendo una comunità ricca, opaca, spesso che opera nell'illegalità, è stata oggetto di assalti da parte di nordafricani, di rapine, ecco perché sono partite le ronde dei cinesi. Ma sono due cose diverse rispetto alle tensioni che si sono avute invece, agli scontri anche tra i cinesi, i 500 cinesi di Sesto Fiorentino, dopo i controlli che la ASL ha lì inviato. Detto questo, anche ascoltando le parole del sindaco di Prato, ma voglio dire, siccome la situazione della comunità cinese di Prato, così come in misura minore quella di Milano, è arcinota, ma cosa ci vuole a schedare? Non è una brutta parola, nel senso che le autorità di pubblica sicurezza lo fanno, i cinesi lì presenti, vedere, non è pensabile che un cinese che risiede in Italia non parli l'italiano, no? Allora, questo è il problema, perché poi loro non riescono a denunciare, ma si rifiutano i controlli. Ricordate cosa è successo in via Sarpi, quando hanno provato a far rispettare le leggi che valgono per tutti i milanesi, quanto a traffico e scarico merci? La rivolta anche lì. Allora, questo non è accettabile, non me ne frega nulla se non è una comunità ricca che lavora e non rompe le palle. Che non rompa le palle va anche bene, ma deve rispettare le regole, punto e basta. Vabbè, Andrea, dicevo che la buona notizia, prima di arrivare adesso alla carrellata di sprechi, come ogni venerdì, riguarda la riconsegna del Colosseo da parte della Valle alla città di Roma, e devo dire che, visto le notizie che abbiamo su Roma, è una delle poche notizie positive in questo periodo. Poi ascolteremo le dichiarazioni di Renzi, di Franceschini. L'investimento è stato di 25 milioni di euro, ma su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, lo Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, e oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Se parliamo del restauro e della ripulitura del Colosseo, è come se parlassimo al mondo del restauro e della ripulitura dell'Italia. E soprattutto non parliamo solo di cultura, ma di economia. Già perché la conclusione dei lavori di restauro finanziati con la sponsorizzazione del gruppo TODS di Della Valle per 25 milioni di euro è la riprova che una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato è possibile e può portare risultati importanti nel recupero, nella conservazione e nel rilancio dell'uso di monumenti simbolici conosciuti in tutto il mondo, e quindi evidentemente i nuovi investimenti e in nuova crescita del PIL. I lavori sono partiti 5 anni fa e hanno riguardato 13.000 metri quadrati di superficie, e questa è stata anche l'occasione di organizzare una vera mappatura fotografica che ha censito ben 81.000 elementi che potranno essere oggetto poi di studi in futuro a cura degli esperti. La fase 2 del restauro interesserà gli ambulacri, i sotterranei, e verrà creato anche un centro servizi esterno con cui gestire le attività di supporto alle visite, che oggi invece sono all'interno del monumento. Dobbiamo metterci a disposizione del paese, ha detto Diego Della Valle, invitando gli altri imprenditori a fare altrettanto un po' in tutte le città d'Italia. Del resto esiste il cosiddetto Art Bonus, che incentiva le forme di mecenatismo con successo. Si tratta dello sconto fiscale del 65% per chi versa un contributo a favore della cultura. Dal 2014 a oggi l'Art Bonus ha superato i 100 milioni di euro. A guidare la classifica delle regioni più virtuose la Lombardia, con quasi 33 milioni di versamenti, seguita dal Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, che oscillano tra i 20 e gli 11 milioni, seguono poi Toscana, Lazio, Liguria e le altre regioni che stanziano meno di un milione. Insomma, c'è ancora molto da fare, evidentemente, ma la strada è tracciata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, cara Virginia Raggi, abbiamo qualche suggerimento per lei, anche se lei immagino abbia già preso in mano tutti i dossier sulle municipalizzate, ma non solo. Però, anzi, partiamo da Roma, visto che la buona notizia oggi riguarda il Colosseo, il resto è un disastro. E mi riferisco allo stato. Guardate che qua non c'è solo l'incompetenza, parliamoci chiaro, qua c'è il malaffare, tangenti, corruzione, non è quello che stiamo per raccontare non può essere spiegato solo con l'incompetenza, arriverò anche all'ATAC, però vorrei partire da un'altra municipalizzata di Roma, si chiama AMA, per chi non lo sapesse è l'azienda dei rifiuti, e si becca al quinto posto in maniera strana, non perché, ma perché ci basta sentire come ha definito il sistema industriale di trattamento dei rifiuti della capitale, il presidente dell'AMA, Daniele Fortini. Basta sentire quello che dice lui per dargli il quinto posto. Sentiamo Fortini. Beh, questo è il dramma della capitale d'Italia. Vede, mentre Londra, Parigi, Berlino risolvono la gestione dei rifiuti, del ciclo integrato, quindi dalla raccolta, alla raccolta differenziata, lo spazzamento, il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento, dentro il loro territorio metropolitano, per il 98% dei rifiuti che vengono generati, noi riusciamo soltanto nel 36% per i nostri rifiuti, il che vuol dire che abbiamo bisogno del soccorso esterno. Il sistema industriale di trattamento dei rifiuti di Roma è arcaico, precario, fragilissimo, e quindi basta uno stormir di fronda e noi andiamo in difficoltà. Per questo serve programmare, progettare e soprattutto costruire rapidamente impianti nei quali si possa consegnare le nostre raccolte differenziate, che sono importanti, siamo al 42%, e i rifiuti indifferenziati, in modo tale da renderci autonomi e liberi come lo sono le altre capitali europee. Allora, il quinto posto, ovviamente il suo presidente ha un sistema arcaico, precario e fragilissimo, ma andiamo a Bari. Oggi non so perché, ci sono delle settimane un po' di coincidenza, oggi abbiamo tutto Roma e Bari, però andiamo a Bari, dove il comune di Bari, che non ha bisogno di spendere soldi per edilizia residenziale, per gli asili, no, ha speso con l'ultima rata 340.000 euro, a cui bisogna aggiungere altri 100.000 euro, quindi in tutto 440.000 euro di interessi maturati negli anni già liquidati a fine 2014. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli interessi che il comune di Bari continua a pagare a distanza di 28 anni, dicesi 28 anni, per un pasticcio che si chiama realizzazione del secondo palazzo di giustizia al quartiere Libertà. Del quartiere Libertà di Bari. Allora, è un progetto che non è mai nato. È esistita questa idea di fare un secondo palazzo di giustizia solo sulla carta. Ci hanno lavorato 7 professionisti, architetti e ingegneri, ampiamente retribuiti. Era il 1988, c'era ancora il muro di Berlino, giusto per far capire a tutti di cosa stavamo parlando. E il comune di Bari affida a un gruppo di professionisti l'incarico di progettare l'intero complesso del secondo palazzo di giustizia e dello stralcio dell'ala bunker da costruire in via della Carboneria al quartiere Libertà. Il progetto però viene bocciato dalla commissione di manutenzione della Corte d'Appello, che non ritiene questa soluzione idonea per il Palazzo di Giustizia, e soprattutto non lo ritiene come soluzione idonea al complemento del Palazzo di Giustizia già esistente. gli ingegneri, gli architetti avevano lavorato alla progettazione, quindi dovevano essere pagati, e va bene, uno paga la progettazione. Il comune però dà solo un acconto e non salda le competenze professionali. I professionisti si rivolgono al tribunale, arrivano ricorsi, ingiunzioni di pagamento, e dal 1988 si passa facile facile al 2014. Già uno stato in cui dei professionisti fanno ricorso contro il comune, a torto o ragione, ma arrivare al 2014 te la dice lunga. Arriviamo al 2014, che cosa è successo? Che nel frattempo, siccome il tribunale dà ragione a architetti e ingegneri, sono maturati anche gli interessi. A novembre 2014 si insedia la nuova amministrazione comunale, quella di De Caro, e il comune stacca il primo assegno a questi ingegneri e architetti, 1.052.000 euro per la progettazione, di cui 340.000 euro sono di interessi, per cui già la cifra mi sembra molto alta, 700.000 euro per una progettazione del 1988, ma soprattutto il comune deve sganciare altri 340.000 euro per gli interessi maturati nel frattempo. Solo che fa pure un errore, diciamo, nel calcolo di questi interessi, perché vengono calcolati a partire dal 2008 e invece che dal 2004, e quindi adesso arriva un'altra tranche da pagare, altri 100.000 euro, per la precisione 92.780 euro. Complimenti, 1.152.000 euro per la progettazione di un palazzo di giustizia che non è neanche mai nato. Meglio stare calmi oggi che fuori fa caldo. Andiamo a Roma, torniamo a Roma. Allora, sapete quanti sono i fascicoli aperti dalla Procura di Roma sugli appalti irregolari del Comune di Roma? 200 fascicoli aperti dalla Procura. Dentro c'è di tutto, questo è il nostro terzo posto. Chiaramente affidamenti di lavori senza gara, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, carenza di controlli, lavori pagati e mai eseguiti, 15 gare finite a processo per mafia capitale, 50 bandi ancora all'esame del PM. Tra le novità c'è la gestione del manto stradale e l'affidamento degli appalti per i campi Rom. Ora, io non voglio entrare sui Rom, ognuno la pensi come vuole, vale il discorso fatto in precedenza, devono stare, rispettare la legalità, e sennò che vadano dentro. Ma attenzione che noi poi facciamo i Rom dei Rom, nel senso che rubiamo anche sulla gestione dei Rom, come dimostra l'inchiesta di Mafia Capitale. Allora, la parte che riguarda la manutenzione stradale ha già portato in carcere 9 persone, 50 indagati e lavori sotto accusa per 16 milioni di euro. Poi uno si chiede perché a Roma le strade in manto stradale faccia schifo, e dico schifo nel senso che ci vado spesso per lavoro. Ti fai una giornata in macchina nel centro di Roma, in taxi, in macchina tua, esci con la schiena, è tutta una buca. Adesso io capisco tutto, è tutta una cavolo di buca. 16 milioni di euro di lavori sotto accusa, si contestano irregolarità nelle procedure, mancanza di controlli, le aziende usavano materiale scadente, e te credo poiché ci sono le buche, e quantità di cemento minori di quelle previste e necessarie per evitare il continuo formarsi di buche. Cioè le buche di Roma, per carità, ce ne saranno anche dovute a fenomeni fisici, ma in larga parte sono dovuti alla corruzione, come quando cadono in alcuni palazzi al sud. Cioè, la corruzione, oltre che avere un costo per la collettività, ha un costo successivo. Quelle buche si chiamano corruzione. Non è possibile che il manto stradale solo a Roma faccia così schifo. Allora, per quanto riguarda i campi Rom, invece, l'indagine avviata da tempo dai carabinieri, adesso questa indagine sta portando all'arresto di, proprio in questi giorni, di titolari di cooperative e diversi funzionari del comune impegnati a lucrare sui campi Rom. Tutto ruotava intorno alla figura di Emanuela Salvatori, responsabile per i campi Rom del comune di Roma, già condannata lo scorso novembre a 4 anni di reclusione in abbreviato, in rito abbreviato, per i suoi affari con il RAS delle cooperative Salvatore Buzzi. Il periodo in questione è quello che va dalla fine del 2013 alla fine del 2014. Per corrompere i funzionari e i dipendenti del Dipartimento delle Politiche Sociali della Salute del Comune di Roma, gli imprenditori legati ad alcune di queste cooperative facevano di tutto, ossia soldi, ma anche donazioni di vario tipo, collier di brillanti, biglietti per il teatro, la promessa di un'assunzione presso una cooperativa, addirittura l'acquisto di un escavatore o la pubblicità gratuita per uno studio dentistico di un familiare di un soggetto indagato. E qui si va veramente al grottesco. Tra l'altro i magistrati della Procura di Roma e i carabinieri della compagnia Euro hanno accertato che quasi sempre i lavori per la bonifica di campi rom non venivano effettuati. Io dico, tu becchi la mazzetta, la tangente, ma almeno effettui i lavori. No, non venivano effettuati, e dietro l'aggiudicazione degli appalti c'erano firme apocrife, atti con richieste falsificate, documenti retrodatati. Il passaggio di denaro, spesso filmato dai carabinieri, è avvenuto anche dentro gli stessi uffici del comune. Si scambiavano mazzette da 800 fino a 3.000 euro a seconda del valore dell'appalto. La cosa che, per buttarla a ridere, poi andiamo sul metro che mi manca poi il secondo e il primo posto della classifica, in questa inchiesta spicca anche il nome di Vito Derla. Dice, che cavolo è Vito? Vito Derla è un medico odontoiatra con due studi ben avviati a Monte Mario. Dice, cosa cavolo c'entra un medico con gli studi a Monte Mario, con la gestione dei campi rom? E attenzione, lui è sotto inchiesta per concorso in corruzione. Secondo i PM, Derla avrebbe fatto pressioni perché gli imprenditori incaricati del Campidoglio, fornitori delle coop come Buzzi, ma anche come Roberto Chierici, assumessero la neolaureata figlia della Salvatori nelle coop o facessero pubblicità sulle TV locali controllate da Chierici alle attività dello stesso Derla. Praticamente c'è un asse che non si capisce neanche tra uno... tra un dentista e questa zarina degli appalti delle cooperative, e quindi Manuela Salvatori, in cui lui fa pressione perché la figlia di lei venga assunta e lui ottenga sulle TV locali pubblicità gratis per il suo studio odontoiatrico. Ma no, insomma, almeno i due avevano una relazione, non si capisce. Praticamente attorno a quest'asse Salvatori Derla si sarebbe coagulato un intero quartiere, una categoria di professionisti, perché c'è anche un medico il medico di base della Salvatori è nell'elenco dei denunciati, si chiama Vincenzo Pazzetta, a sua volta è specializzato in cure a domicilio e altri servizi, anche lui cure dentarie. Qui l'affare si ingrossa, diventa un affare da incisivi molari, e spesso spinge i suoi pazienti nel suo studio oltre frontiera a un ambulatorio in Croazia. Ragazzi, ma questo non è romanzo criminale, questa è una comica criminale, grottesco criminale. Questo è Gran Guignol, dentisti con studi in Croazia, zarine degli appalti sui rom. Quello che è certo è che i campi rom non venivano bonificati e le buche a Roma sono orchestrate ad arte. Dopodiché torniamo, ahimè, non per essere più leggeri, perché andiamo al secondo e al primo posto. Focus Economia. La classifica della settimana. Andiamo al secondo posto della classifica della settimana, dove torniamo in Puglia, non a Bari questa volta. Qualcuno si ricorderà delle ferrovie del nord-est, ce ne siamo occupati più volte, del sud-est, non nord-est chiaramente, ce ne siamo occupati più volte perché erano quelle ferrovie che adesso sono state commissariate, sono 480 km di binari che attraversano oltre 80 comuni pugliesi. Ferrovie che hanno accumulato un passivo record, ma soprattutto che sono state gestite per 23 anni da Luigi Fiorillo, ex amministratore unico della società ferroviaria, e che avevano c'era di tutto lì dentro, a parte gli stipendi di Fiorillo, adesso li racconto, ma c'era un ufficio stampa che aveva sede, però il responsabile dell'ufficio stampa viveva a Roma e ogni volta doveva andare in Puglia, non si capisce perché l'ufficio stampa delle ferrovie pugliesi debba stare a Roma, veniva rimborsato l'autoamente anche con le diarie di trasferta. C'erano i vagoni comprati, lo ricordate, i vagoni comprati con i finestrini che non si potevano aprire senza l'aria condizionata, per cui comprati da un costruttore tedesco, se non ricordo male, o polacco. Peccato che non avessero l'aria condizionata, ma non si potessero neanche aprire, quindi è ovvio che in Puglia fa sempre un fresco totale, soprattutto nel Tavoliere, soprattutto ad agosto, è nota come località, diciamo, tra le Alpi Svizzere, o vai nelle Alpi Svizzere o vai sul Tavoliere delle Puglie se vuoi fresco d'estate. Beh, allora, perché ne riparliamo? L'azienda oggi è commissariata, perde 300 milioni di euro grazie alla gestione degli stessi manager per 20 anni, è da tempo sotto la lente della Corte dei Conti dei magistrati, le casse sono a secco, i soldi dei TFR dei dipendenti sono spariti. Nel 2009 l'azienda ha acquistato con i soldi della Regione Puglia 27 treni pagandoli 93 milioni di euro. Secondo i PM il reale valore di Convogli è di 81 milioni. Voi dite, vabbè, ma dai, no, 12 milioni di euro di differenza dove sono finiti? Perché qui possiamo sempre immaginare che non sapessero valutare l'effettivo valore di questi treni, ma siccome di solito quello lo fai di lavoro, il rischio, il sospetto che vi possa essere stata una sovrafatturazione per intascarsi dei soldi è altissimo. Secondo i PM, infatti, questa differenza di 12 milioni è tale da indurre gli inquirenti a disporre il sequestro preventivo dello stesso valore nei confronti dell'ex amministratore unico della società ferroviaria, appunto l'avvocato Luigi Fiorillo. Almeno gli hanno sequestrato 12 milioni. Che poi dice, ma come fanno a sequestrare 12 milioni uno che ha fatto l'amministratore legato delle Ferrovie del Sud-Est? Cioè, 12 milioni, ragazzi, non è che non i risparmi di una vita, ho capito quanto cavolo guadagnavi. Anche perché gli hanno fatto un secondo sequestro a Fiorillo da 4 milioni e mezzo di euro, disposto in questo caso dalla Corte dei Conti ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti suoi, ma anche dell'ex dirigente delle Ferrovie del Sud-Est, Francesco Paolo Angiulli, nell'ambito di un'indagine su sprechi e consulenze d'oro. In particolare, tra il 2011 e il 2014, i due funzionari avrebbero percepito compensi superiori, ma va, agli incarichi previsti. Allora, ci sono anche i consulenti della società di revisione Deloitte, i quali hanno detto, guardate, non è possibile ricostruire tutti i compensi entrati nelle tasche di Fiorillo nei 23 anni trascorsi in azienda. Abbiamo fatto però delle verifiche. Tra il 2004 e il 2005 lui porta a casa certamente, tra il 2004 e il 2005, 14 milioni di euro. Ma io dico, ma ragazzi, ma come cavolo fa uno a intascare 14 milioni di euro in un anno per delle ferrovie gestite malissimo, che sono in perdita e non se ne accorge nessuno? Non c'era un sistema di controlli e formalizzazione delle procedure aziendali che potesse bilanciare il suo potere. Parti importanti del funzionamento aziendale erano fuori dalla direttiva delle Ferrovie del Sud-Est. Il direttore del personale, quello dell'ufficio stampa, pensate che gestiva il personale con intero lavoro da Roma. Altre attività fondamentali erano tutte appaltate all'estero. Pensate che nel corso degli ultimi 10 anni esternalizzare le attività delle Ferrovie del Sud-Est è costato 272 milioni, 26 milioni solo nel 2015. Le spese legali sono arrivate da 2 milioni fino a 8 milioni di euro. Ma che cavolo di spese legali ha le Ferrovie del Sud-Est? Allora, c'è lo studio legale Schiano, a cui la società si è affidata totalmente, tanto che nonostante la gigantesca mole di contenziosi, gli analisti rilevano che non c'è alcuna traccia di una direzione affari legali. Ma vuol dire, con questi mole di lavori, ma fai prima assumere un avvocato, due avvocati, tre avvocati e gestisci internamente? No, sempre lo studio legale Schiano, il quale ha avuto onorari liquidati dal 2001 a oggi per 27 milioni di euro. 27 milioni di euro. E vanta crediti lo studio Schiano ancora con l'azienda per 15 milioni di euro. La cosa bellissima è che l'avvocato Angelo Schiano ha fatto anche parte dell'organo di vigilanza dell'azienda. Bravo. Focus Economia. No, voglio dire, adesso, meno male che almeno 12 milioni a questo Luigi Fiorillo gliel'hanno sequestrati, più altri 4 e mezzo a lui e Angiulli. Ma adesso, massimo rispetto per lo studio Schiano, ma è interessante capire perché le Ferrovie del Sud-Est hanno pagato già 27 milioni di onorari. Ma che cause hanno avuto? Non so, veramente. Allora, lo studio in cui l'avvocato è anche dentro l'organo di vigilanza. Vabbè, dai, adesso, diciamo che la governance è un'altra cosa nella vita, caro avvocato Angelo Schiano, la governance è un'altra cosa, non può stare nell'organo di vigilanza quando ha 27 milioni di onorari, ne vanta altri 15 milioni. Avvocato, l'affare si ingrossa, E andiamo al primo posto, dai, che così poi andiamo col caso, come sempre, caso virtuoso di chi si è rimboccato le maniche. Andiamo al primo posto. And the winner is... Cavolo, è come quando vincono sempre gli stessi il pallone d'oro, la Champions. È l'Atac, è l'Atac, è l'Atac, è l'Atac. Perché non bastava aver raccontato che l'azienda dei trasporti municipalizzati di Roma viaggia con 1,5 miliardi di debiti. Non bastava ricordare che negli ultimi 5 anni l'Atac ha bruciato 4,5 miliardi di cassa arrivate dal Comune e dalle Regioni. non bastava aver raccontato nelle settimane scorse lo scandalo dei pneumatici, venivano serviti da una società di un dipendente dell'ATAC stessa. Da quando è arrivato il nuovo direttore generale Marco Rettinghieri, che ha messo le telecamere a circuito chiuso in tutti i depositi dei mezzi, il numero dei furti di materiale nei depositi ATAC è precipitato e hanno, pensate che pesavano in bilancio 10 milioni di euro l'anno i furti. E così come è precipitata l'usura delle gomme, perché l'ATAC aveva un record di usura delle gomme da 1500 pneumatici a quadrimestre, 1500 pneumatici a quadrimestre, si è crollati a 500. Evidentemente le gomme risentono dei commissari. Ma abbiamo raccontato anche dei sindacati dell'ATAC che gestiscono 18 mense, i bar, 151 distributori automatici, assumono persone, ci sono stati 850 dipendenti che hanno chiesto di fare gli scrutatori durante le elezioni amministrative, e dopodiché nei giorni seguenti le elezioni si sono accusati in media 600 guasti al giorno, 100 in più rispetto alla media. Abbiamo raccontato anche di quanto stesse accadendo prima della partita, dei distacchi sindacali dentro l'ATAC. I sindacati hanno una responsabilità enorme nello schifo in cui è ridotta l'ATAC. I distacchi sindacali valgono praticamente come se ci fossero 82 dipendenti che tutti i giorni lavorassero altrove, ammontano a 111.664 ore di permesso sindacale all'anno. Costano ai contribuenti i distacchi sindacali 4.300.000 euro l'anno, per ridurre l'ATAC al cesso in cui è ridotto, dove tra l'altro gli autisti guidano meno della metà degli autisti milanesi e anche un terzo in meno degli autisti napoletani. Complimenti ai sindacati, che nel frattempo gestiscono poi la parte interna, no? Perché ne parliamo oggi? Perché c'è dell'altro. Pensate che l'ultima cosa che si è scoperta dell'ATAC è l'acquisto e affitto. Quanto ho? Due minuti? Un minuto. L'affitto e l'acquisto di una nuova sede che non esiste. Quindi come cavolo fai a acquistare e poi affittare? Prima l'acquisti, è così. Allora, nel 2006 si decide di acquistare una nuova sede per l'ATAC, chiaro che era prioritario. Un immobile viene trovato nei pressi dell'Eur a un prezzo di circa 100 milioni di euro. Però, a Roma dicono mei qualcosa. Nel 2009 si sigla il contratto con Ben Pepa Ribà, proprietaria dell'area. Il prezzo sale subito da 99 a 118 milioni, pure lì. L'ATAC sgancia subito 20 milioni, cominciano i lavori di ristrutturazione, però si bloccano per alcuni contenziosi. Passa un anno e la cosa però si risolve in un altro modo un po' curioso. L'ATAC non compra più l'immobile, ma lo affitta con l'impegno a pagare un canone annuo pari al 7% del suo valore, ossia 8 milioni per 9 anni. Tutto questo avviene prima che il palazzo esista. Allora, il commissario Tronca ha presentato un esposto e dice: il contratto di locazione dai vertici nominati dal commissario Tronca hanno presentato un esposto. Il contratto di locazione è stato siglato nonostante il bene non fosse ancora venuto ad esistenza e non risulta neppure collaudato né consegnato. Cosa paghiamo? Ciò nonostante, nessuno ha mai sciolto il contratto. Quindi, un'indagine interna all'azienda poi vede e fotografa anche un appalto triennale da oltre 38 milioni di euro per pulizie. Anche lì tangenti e sprechi, 38 milioni di euro per le pulizie in locali che ad una più attenta verifica risultavano essere inesistenti, cioè pulivano locali inesistenti, sotto sequestro o interdetti all'uso. Chiudo con la ciliegina sulla torta che si mette l'applauso e poi andiamo su GR24. In questi giorni, in viale 21 aprile a Roma, c'è un autobus guasto che giace abbandonato da 3 giorni lì perché si è rotto, e quindi i passeggeri, per prendere l'autobus vero, quello che funziona, devono attraversare la strada. Complimenti all'ATAC, grazie per tutte le informazioni che ci date, e spero di ascoltiamo. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Il mio lavoro è togliere le patatine al momento giusto. 3 porzioni di patatine! Arrivano! Ma far sapere in sede se è il momento di promuovermi, chi c'è? C'è INAZ. Le aziende che hanno INAZ hanno le soluzioni più intelligenti per gestire e amministrare le risorse umane. E io ho solo il bello del lavoro. Pronte! INAZ. Human Energy. In caso di infiammazione e dolore puoi provare l'Asonil antidolore, gel antinfiammatorio al 10% di concentrazione di principio attivo. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Da Bayer. Da oggi ci sono tanti motivi in più per scegliere Allianz. La neve bianca delle Svalbard e la sabbia ancora più bianca di Capoverde. Il sole a mezzanotte di Caponord e il sole caldissimo delle Azzorre. Le spiagge selvagge di El Hierro e la natura ancora più selvaggia dell'Islanda. Con Allianz vinci un viaggio al mese nei sei paradisi della serenità e ogni giorno una bici pieghevole Olmo. In più, prezzi leggeri su tutte le polizze. Vieni in agenzia o scopri di più su Allianz.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento su Allianz.it. Come ti chiami? Stefano Strocchi. Artigiano della qualità? Certo. Da domani in Poltrone Sofà ci sono i doppi saldi. Doppi saldi, doppio risparmio. Esatto. Al 50% di sconto aggiungono fino a un ulteriore 40% su tutta la collezione. Io un pensierino ce lo farei. E puoi pagare in 3 anni. Una delle tante cose comode dei nostri divani. Fammi una faccia da doppi saldi. Corri in negozio a vedere la faccia di quelli che sono dentro. Ma se scelgo un divano veramente brutto, posso avere ancora più sconto? Se vuoi un divano brutto non devi venire da noi. Grandissimo! Poltrone Sofà, gli artigiani della qualità. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Sport, vita sana e Oliveto, acqua della salute. L'unica che mi aiuta a digerire e a vivere in forma. Io lo chiamo effetto Oliveto. Perché Oliveto vale di più. Se hai dubbi sul tuo muro, meglio andare sul sicuro. Muro Sicuro. Così adesso ristrutturo. Muro Sicuro. Io non rischio il mio futuro. Muro Sicuro è un marchio Ruredil. E tu sei sicuro del tuo muro? Vai su murosicuro.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, ci mancava, è l'Atac che riesce anche a pagare affitti, a comprare e pagare affitti di immobili inesistenti o a pulire con 38 milioni di euro di appalto di pulizie. Sono 12 milioni e 500 mila euro all'anno, perché vale 3 anni l'appalto. Addirittura pulizie di locali che non esistono, o sono sotto sequestro o sono interdetti all'uso. Ma che pulisci? Le maniglie. E guardate che però, attenzione, adesso io non ho nessun amore per nessuno, ma il nuovo commissario dell'ATAC, quello che sta, direttore generale dell'ATAC, Marco Rettighieri, guardate che insomma, è lui che sta scoprendo il pentolone. Lo dico ogni volta, ma dove erano i sindacati che sono dunque... I dipendenti dell'ATAC che sono iscritti sono 11.000, quasi 12.000 dipendenti. Der Spiegel l'ha definita, la settimana tedesca ha nominato l'ATAC recentemente la peggiore azienda di trasporti pubblici d'Europa. E ci sono 12.000 dipendenti, mi sembrano tantini. Gli iscritti al sindacato sono 8.900, 2.800 alla CISL, 1.800 alla CGL, 1.100 alla UIL e 208 alla UGL. Poi ci sono altre 8 sigle. Ma dove erano questi sindacati mentre gestivano le 18 mense, i bar, i 151 distributori automatici, assumevano anche 11 persone e non denunciavano i 10 milioni di furti all'anno, materiale per 10 milioni di euro di furti? Dove erano? Dove erano mentre le gomme, i pneumatici venivano consumati al quadruplo della media italiana, 1.500 pneumatici al quadrimestre? Dove erano? Mentre venivano richiesti 850 permessi sindacali, permessi per fargli scrutatori, dove erano? Si dimettessero tutti, almeno per coerenza. Va bene, non buttiamoci troppo giù, che già fa caldo e non ce n'è bisogno. Giorgio Onorato Aquilani, amministratore e fondatore di iDecking Revolution, buonasera. Buonasera, buonasera a chi ci sta ascoltando. Oh, finalmente, aspetta. Lei di quanti anni ha? Io ne ho 33. 33. E che cos'è la iDecking Revolution? Voi sapete che dopo la poco invidiabile classifica, ogni venerdì per tirarci un po' sul nostro Prozac, sono gli imprenditori che hanno lanciato un'attività di impresa in questi anni di crisi. Cos'è la iDecking Revolution e quando è nata? Allora, iDecking nasce commercialmente 3 anni fa, siamo una doverosa premessa nel mondo delle pavimentazioni da esterno, infatti il termine internazionale per definire le pavimentazioni in legno da esterno è appunto decking. È un progetto molto ambizioso in realtà, perché nasce per voler rivoluzionare questo settore, sia nei materiali che nei metodi di installazione e ci stiamo anche riuscendo. Di dove siete voi? Dov'è che... Noi siamo a Vetralla, in provincia di Viterbo. Oh, quindi abbiamo appena avuto oggi Roma, quindi come, come grande, siamo... come grande. Lei, l'ATAC, lei utilizza i mezzi a Roma ogni tanto? No. No. Le strade, no. A Roma, le strade a Roma le utilizza? Beh sì, con la macchina, ma è sempre un'impresa. Beh, abbiamo scoperto anche perché, perché prima abbiamo raccontato anche delle gare d'appalto tra Mafia e Capitale sul tipo di asfalto utilizzato. Comunque, torniamo a voi. Anche... Mi dica, c'è anche? Sì, sì, c'è anche una faccia bella, infatti alla fine del vostro programma tende sempre a strappare qualche sorriso di speranza. Sì, sorriso di disperazione più di speranza, abbia pazienza. Lacrime di speranza. Comunque, cosa fa Hidecking Revolution? Hidecking in due parole consente di installare un pavimento con la semplice pressione del piede, un brevetto nostro internazionale. Per dare un'idea concreta anche per i meno addetti al settore, fino a ieri due persone molto molto molto preparate potevano installare circa tra i 20 e i 25 metri quadrati al giorno di pavimentazione. Con il nostro sistema si va oltre i 120 abbondanti. Per cui viene con me che è stata una innovazione accolta veramente come... Quindi il brevetto è vostro, e quando è che avete fondato la startup? La startup è stata fondata nel 2013, ha avuto il suo percorso difficile perché ha iniziato da zero. I soldi che vi li ha dati? E i soldi era la nostra ultima fish, per cui ce l'ha dati un po' la nostra incoscienza e la crisi stessa che ci ha suggerito di non andarcene e persistere in questo paese. Ho capito, ma i soldi iniziali chi ve li ha dati? Beh, era la nostra ultima fish, ripeto, erano dei soldi messi da parte. Ah, dei soldi messi da parte, ho capito. Esatto. E con quanto avete iniziato? Abbiamo iniziato con circa 50.000 euro. E poi il fatturato come sta andando? Fatturato sta andando abbastanza bene, perché il primo anno abbiamo fatturato, sorridendo, circa 60.000 euro, il secondo 600.000, siamo passati al milione e quest'anno chiuderemo quasi a 2 milioni. Quasi 2 milioni. Quanti siete? Siamo in 4 soci e 5 dipendenti. Ecco, com'è che si chiama il vostro prodotto? Cioè, se c'è un nome, insomma, e dove esportate, se le banche vi hanno aiutato? Allora, le banche non ci hanno aiutato, sinceramente è un qualcosa che abbiamo anche gradito, perché... Avete gradito non essere aiutati? Assolutamente sì, perché crediamo che insomma con le proprie forze si riesca... Beh, però questo non è vero, nel senso che se le banche capiscono un progetto è utile anche avere dell'equity bancario, sì, o di business angels, no, prego. Certo. È utile, ma in realtà poi chiedono sempre di più di quello lì che chiediamo noi in cambio. Per cui sinceramente sotto questo punto di vista siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo però accesso ad un finanziamento per la ricapitalizzazione dell'azienda lanciato dalla Regione Lazio. Questo è vero, ci siamo ritrovati avevamo i requisiti per poter partecipare a questo bando e ci siamo ritrovati in l'azienda capitalizzata da insomma 10.000 euro canonici ai 200.000 euro di capitale sociale che abbiamo oggi. Quanti dipendenti avete e se state assumendo? Allora, in realtà l'intero progetto è coordinato dalla sede centrale in Italia, dove siamo noi 4 soci, abbiamo 5 dipendenti, e poi sta diventando una piccola multinazionale che però utilizza esperienza di aziende che prendono in licenza i nostri brevetti. E dicevo, esportate, cioè i mercati di sbocco dove sono? Noi vendiamo un pochino in tutto il mondo. La prima fiera che abbiamo fatto è stata in Germania, perché in Germania avviene il Salone Internazionale del Settore delle Pavimentazioni, dove abbiamo orgogliosamente vinto per 2 anni di fila il premio come prodotto più innovativo e azienda innovativa. Dove? Scusi, che ho perso. In Germania, ad Hannover. E da là ci si è aperto un orizzonte commerciale che oggi conta partner in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Australia. Vendiamo addirittura ai cinesi, per cui è una bella soddisfazione. Cioè vendete pavimenti ai cinesi? Ma di, esatto. Di riso? Il sistema. Sì. Ho capito. E che cos'è duro? Il duro è un materiale. L'azienda è fondata su due sistemi che si chiamano Easy Click, Easy Change, e sono la base del nostro prodotto. Poi c'è il mondo di ciò che va messo sopra, ovvero o il legno o un materiale composito. Questi nuovi compositi si stanno facendo strada sempre di più, specialmente nella richiesta di chi vuol fare meno manutenzione, e abbiamo sviluppato questo materiale che si chiama Duro, che è un materiale eco-friendly, che viene fatto praticamente con la buccia del chicco del riso, quindi con un prodotto che altrimenti verrebbe smaltito in bruciatori e aumenterebbe anche il tasso di CO2 nell'aria, gli si dà una seconda vita più nobile e sicuramente anche più performante rispetto a quella lì del legno tradizionale. Sì, il nome è un po' da preservativo, però vabbè, capisco che fosse anche dovuto per mostrare resistenze. Senta, è una scelta sicura allora. Però bravo Aquilani, è pronto per il programma che sta per iniziare fra 20 minuti. Allora, senta, in bocca al lupo a lei e ai suoi tre soci. Grazie quindi a Giorgio Onorato Aquilani, fondatore assieme agli altri tre soci di iDecking Revolution, 33 anni e quasi 2 milioni di euro di fatturato. La borsa più 0,60% oggi, molto divergente. Da un lato Yux Net-a-Porter più 4,20, Unipol-Sai più 4, Boots Unicem più 3,90, Unipol più 3,80, Moncler più 3,5, Saipem più 3,30, Poste più 2,60, Mediaset più 2,20 come Luxottica e Atlantia, e anche Fiat più 2% come Eni. Dall'altro le banche: Unicredit meno 4,90, Pop Emilia Romagna meno 4,80, Ubibank meno 1,90, Pop Milano meno 1,30 come Intesa San Paolo e FinecoBank meno 1,30%. Le commentiamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Gli altri indici non li ho detti, avete ragione: Parigi più 0,80, Francoforte più 1%, Londra più 1,13, Dow Jones più 0,20. Il doppio fronte, allora, Yux Net-a-Porter dopo il consiglio di amministrazione di ieri, il settore auto, e invece l'altro fronte Unicredit e anche BPER. Per quanto riguarda Yux, un rimbalzo che è nell'attesa del piano industriale strategico che verrà presentato il 6 luglio, è stato deliberato ieri dal Consiglio d'amministrazione. L'attesa è legata al fenomeno Brexit, perché Yux è stato tra i titoli più penalizzati, avendo il 16% dei suoi ricavi realizzati nel Regno Unito, e quindi le risposte che arriveranno dai manager sono particolarmente attese. Il mercato dimostra di crederci a questo piano. Per quanto riguarda il settore auto, oggi sono iniziati a uscire i primi dati sul mercato di giugno, in particolare per quanto riguarda Fiat, bene negli Stati Uniti, più 7% nel mese di giugno, si tratta del miglior mese di giugno dal 2005, e a mercati chiusi sono poi arrivati i dati sulle immatricolazioni italiane, più 12% in mercato Italia, più 13,6% per il gruppo Fiat. È tornata però la pressione sui bancari. Quindi l'arrivo di Jean-Pierre Mustier non basta a mettere tranquillità a Unicredit, anche se il mercato si aspettava questa svolta. Le risposte sui crediti deteriorati che arriveranno dai progetti del governo, con questo Atlante 2 in discussione, saranno probabilmente decisive per calmare un po' le acque sul settore delle banche. Sul settore delle banche, sì. E poi c'è un dato molto buono su Italmobiliare, giusto? Sì, perché Italmobiliare oggi non solo ha firmato la chiusura del passaggio di Italcementi a Heidelberg Cement, quindi il passaggio di controllo che porterà poi Heidelberg a lanciare un'OPA 10,60 su Italcementi, ma ha anche varato un riassetto, una riorganizzazione della holding stessa, quindi di Italmobiliare, che passa anche per un dividendo straordinario agli azionisti di risparmio e alla conversione del risparmio in titoli ordinari. Tutta questa operazione da 500 milioni di euro ha portato a guadagnare l'11% sia le azioni ordinarie sia le risparmi. E infatti appunto 11% sia sul risparmio che sulle ordinarie. Mono TV è il terzo miglior titolo in assoluto, più 10,5. Salini in pregiro più 8%. Abbiamo già detto in apertura del fatto che ha vinto il primo lotto della diga di Rogun, che sarà la diga più alta al mondo, 335 metri nel Tagikistan, vale 2 miliardi di dollari all'interno di un valore complessivo dell'intero progetto da 4 miliardi di dollari. Il titolo ne beneficia. Bomi Italia più 6,6, Renault più 6,4, il Sole 24 Ore più 5,90, fronte opposto Notorious Pictures meno 8,30, Cover 50 meno 6,70 e Sol meno 5,30%. Grazie e buon fine settimana da Andrea Fontana e i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. E chiudiamo con le previsioni del Centro Studi Confindustria, che oggi ha riaggiornato le stime alla luce della Brexit. Non sono belle, ve lo dico subito. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria, il costo per l'Italia della Brexit si tradurrà nel biennio 2016-2017 in 0,6 punti di PIL, 81.000 disoccupati in più, 150 euro di reddito pro capite in meno e 113.000 poveri. Tra l'altro, questo non vuol dire che riparta la disoccupazione, ma perché tant'è che il Centro Studi Confindustria stima comunque anche, però è l'effetto negativo rispetto a quello che vi sarebbe stato se non ci fosse stata la Brexit. Il Centro Studi Confindustria stima anche però un'accelerazione degli investimenti, più 1,9% quest'anno e più 1,3% nel 2017, soprattutto grazie agli investimenti in acquisto di macchinari e mezzi, trasporti. Nel settore costruzioni, che dovrebbe registrare il primo incremento dopo 8 anni, più 0,7%, e in crescita anche i consumi delle famiglie, più 1,2% nel 2016, più 0,7% nel 2017. Sentiamo il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, spiegare quali sono i canali attraverso cui la Brexit rischia di penalizzare l'economia degli altri paesi. Come opererà la Brexit sull'economia dei paesi vicini e anche non tanto vicini? Attraverso quattro classici canali. Il primo è il canale commerciale, cioè meno importazione dal Regno Unito, quindi meno esportazione da altri paesi, e il canale commerciale opera sia direttamente, appunto meno esportazioni verso il Regno Unito, sia indirettamente, perché anche la Francia, anche la Germania, anche altri paesi esportano meno verso il Regno Unito e quindi domandano meno importazioni dall'Italia. C'è il canale della svalutazione del cambio, che rende con più competitive le merci britanniche in tutti i mercati, anche i mercati terzi, oltre che sul mercato interno, e che rischia di innescare, come ha detto Draghi l'altro giorno, una nuova guerra delle monete, quindi con nuove ondate di instabilità dopo che l'accordo di Shanghai all'inizio di quest'anno aveva congelato la situazione dei cambi. Lo yuan in effetti ha già cominciato a svalutarsi. Il canale finanziario, che va attraverso la caduta delle borse, che aumenta il costo del capitale di rischio, ma anche attraverso l'effetto ricchezza sulle famiglie, quindi un disincentivo a spendere da questo punto di vista, e poi soprattutto un razionamento del credito, perché le più colpite da questa caduta dei valori borsistici sono state le banche, e quindi c'è il rischio di una selezione più forte della clientela, anche in vista di un rallentamento, di un peggioramento delle condizioni economiche. E infine la fiducia di famiglie e imprese, che spaventate dalla situazione tendono a congelare i piani di spesa. E su questo è intervenuto anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, proprio sulle conseguenze dell'addio di Londra, della Gran Bretagna e dell'Unione Europea. Ascoltiamo al microfono della nostra Livia Zancanelli. È evidente che l'effetto Brexit dà degli elementi di ansia e di speculazione sui mercati di borsa. Non dobbiamo confonderli sui fondamentali di Europa e d'Italia, ma è chiaro che a condizioni data effetti negativi sul PIL europeo ci saranno. Il punto è come l'Europa reagisce all'effetto Brexit, non a condizioni date quali saranno gli effetti. Questa è la strada su cui dobbiamo puntare. Un'Europa meno intergovernativa, un'Europa più federale e un'Europa che sostituisce, diciamo, pezzetti di sovranità con una politica economica per la crescita. Questa è la grande reazione che l'Europa potrebbe dare dal trauma Brexit. Se interveniamo sui fondamentali paesi e su una capacità di reazione dell'Europa, l'effetto Brexit può essere un effetto positivo in chiave europea e in chiave italiana, e su questo dobbiamo ragionare e cercare di trovare proposte e soluzioni per una grande capacità di reazione. E poi il Presidente Confindustria è intervenuto anche su altri rischi che Confindustria vede: le elezioni negli Stati Uniti e il referendum costituzionale, il cui fallimento, dice Centro Studi, potrebbe interrompere il recupero intrapreso e far ricadere l'economia italiana in recessione. Sempre su questo sentiamo il Presidente Confindustria Vincenzo Bocce, sempre al microfono della nostra Livia Zancanelli. Confindustria deve schierarsi se condivide, diciamo, argomenti e contenuti. Il referendum è una questione di governabilità e di stabilità che permette una stagione di riforme economiche che va orientata, secondo noi, verso una politica dell'offerta per rendere competitive le nostre imprese. Avere un paese che va in campagna elettorale ogni 6 mesi significa non avere una visione lunga del paese. Il Centro Studi ha previsto che uno degli scenari probabili può essere l'eventuale caduta del governo e quindi una sorta di caos politico, e questo potrebbe accelerare una questione, come dire, di criticità a paese che non è da augurarsi, chiaramente. Invece quello che io posso augurare a tutti voi in ascolto è un buon fine settimana, soprattutto se lo passerete lavorando, e ringraziare come sempre Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione in studio e Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.